9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 18 maggio da Oscar Giannino. Innanzitutto un pensiero grato, riconoscente e solidale alle famiglie delle vittime, cioè dei due soldati, il caporalmaggiore Luigi Pascazio e il sergente Massimiliano Ramadù, caduti ieri in Afghanistan, e un pensiero fortissimo e calorosissimo ai due feriti, vittime dell'agguato ieri in Afghanistan. È dovuto e scontato, quello che volete, non prendetelo per retorica, ma il sostegno da parte mia verso chi serve l'Italia in divisa è totale, assoluto, sono ragazzi che ci meritiamo e talvolta vanno ben oltre quello che ci meritiamo, secondo me. Seconda osservazione prima di passare al tema della giornata, una risposta dovuta a un articolo che domenica è comparso sul Fatto Quotidiano del procuratore di Torino Bruno Tinti, al quale non è piaciuto per niente la trasmissione che abbiamo fatto dedicata la settimana scorsa a Silvio Scaglia. Ci siamo occupati del motivo per il quale Silvio Scaglia era da 80 giorni in carcere, in custodia cautelare, e abbiamo organizzato una trasmissione nella quale ho sostenuto il mio punto di vista secondo il quale le tre ragioni della custodia cautelare nel nostro ordinamento non erano totalmente rintracciabili nel caso di Silvio Scaglia, e quindi la sua era una custodia cautelare rispetto alla quale abbiamo argomentato le nostre critiche e le nostre polemiche. Bruno Tinti, in un articolo comparso domenica, mi dà del mistificatore, dell'ignorante, del componente di una cricca di amici, dice che sono, nel titolo si dice che sono di certa destra, eccetera eccetera, mi accomuna a Stefania Craxi, a Cicchito, a personaggi politici. Non abbiamo svolto argomenti politici, non faccio parte di alcuna cricca, credo di conoscere l'ordinamento almeno altrettanto bene rispetto al dottor Tinti, lo dico con una certa sicurezza. Il dottor Tinti non parla dei tre motivi per cui un pubblico ministero ha l'unico dovere di parlare in pubblico di una custodia cautelare, fa polemiche politiche, ci dipinge come un partito quando non lo siamo, ci dice che non conosciamo l'ordinamento, ci dice che non sappiamo che c'è un GIP e un tribunale della libertà, neanche per idea. La mia opinione è che argomenti come questi e articoli come questi provano che ci sono magistrati come, e sicuramente Tinti a questo punto, che hanno bisogno del consenso pubblico, che pensano al consenso pubblico invece che hai le tre uniche ragioni per cui privare qualcuno della libertà, chiedere di privare. Quelle ragioni non c'erano, evidentemente. Ieri Scaglia è andato agli arresti domiciliari, vedremo quando rapidamente uscirà dagli arresti domiciliari. Che ci siano dei magistrati che scrivono articoli come questi prova che c'è un problema nella magistratura. Questa è la mia opinione, se mi vuole querelare argomenterò che sono nel libero esercizio dell'articolo 21, caro dottor Tinti, chi dovrebbe dare opinioni sono io, non lei, che dovrebbe fare solo il suo mestiere, libero anche egli di argomentare. Ora, chiusa questa parentesi, ma per respingere l'idea che se ci si occupa dei diritti di libertà di qualcuno si fa parte di cricche politiche pericolose, perdonate, ma questa emittente e io personalmente non facciamo parte, respingiamo l'accusa. Veniamo al tema di oggi. Il tema di oggi riguarda la manovra. Riguarda una manovra preannunciata dopo quello che succede sui mercati. Sapete benissimo che è preannunciato nell'ambito della legge di stabilità, quella che a giugno da due anni per fortuna ci consente di stabilizzare i saldi pubblici nei prossimi tre anni. Se non avessimo adottato questa novità con l'attuale governo e avessimo aspettato di farlo a fine di ogni anno come la tradizione precedente, lo sai Dio dove saremmo andati sui mercati. Però si tratta di 27 miliardi di euro, 1,6 di PIL per i prossimi due anni. Ci sono punti molto importanti che verranno toccati, si parla, il ministro Tremonti ha detto non fate chiacchiere perché la lista delle misure, degli interventi non è ancora uscita di qua e quindi sono tutte illazioni, però si è parlato di interventi sulla chiusura delle finestre anticipate di pensionamento previste dalla transizione della legge Dini, si parla dell'ipotesi di toccare l'aumento contrattato con il sindacato per il pubblico impiego in quest'anno e l'anno prossimo, complessivamente sono più di 5 miliardi, si parla di interventi sull'età pensionabile nel settore privato delle donne, si parla anche di ipotesi di tagliare retribuzione e costi della politica, ed è di questo che ci vogliamo occupare nella prima parte. Diteci la vostra opinione, sia se siete disponibili a queste manovre che dopo si è capito che i mercati premono e non credono molto alla difesa europea, agli stati più deboli dal punto di vista della finanza pubblica, diteci quanto siete disponibili a nuovi sacrifici, ma soprattutto come la pensate sui tagli alla politica. Quanto tagliare di stipendi ai parlamentari italiani e giù lungo tutta la catena? Avete altre idee su come ridurre i costi della politica oltre che semplicemente le retribuzioni dei politici? Il numero lo sapete, 800 24 0024. Iniziamo subito con con i nostri ospiti per vedere innanzitutto qual è la loro opinione e qual è la loro esperienza in questa materia. Abbiamo collegato con noi, buongiorno, Massimo Villone, buongiorno Villone, buongiorno, docente di diritto costituzionale, che è autore di un libro, anzi coautore di un libro insieme a Salvi, I costi della democrazia, che lo rendono insomma un buon, ottimo esperto in particolare dei costi della politica e dei politici. E poi abbiamo con noi Paolo Franco, senatore della Lega Nord, componente della Commissione Bilancio e oltretutto questore del Senato, quindi ha una responsabilità istituzionale in merito ai costi, al bilancio, all'organizzazione pratica, tecnica e logistica di uno dei due rami del Parlamento. Buongiorno senatore Franco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io comincerei, se permette Villone, proprio dal senatore Franco. Io ho una intervista sua alla Padania qui in copia, che è uscita il 16 maggio, e il titolo dell'intervista è "Ora tocca al settore pubblico dare il buon esempio", questo è il titolo, con un catenaccio che diceva: la burocrazia statale è troppo vorace e più tutelata rispetto al mondo delle imprese. Ecco, senatore Franco, dovesse cominciare da lei, certo il governo ha la sua responsabilità eccetera, ma per quello che riguarda il Parlamento sappiamo che poi c'è un'autonomia sul bilancio di Camera e Senato, e c'è chi critica perché in realtà gli aumenti reali delle spese, sia pur nell'ambito di comunicati ogni anno resi dal Senato, dalla Camera, del Quirinale, per cui si tenta sempre di dare buon esempio, si dice rispetto all'inflazione aumentiamo solo di x%, però in realtà la spesa ha avuto un aumento reale negli ultimi anni molto molto molto consistente. E allora, da dove cominciare innanzitutto per quello che riguarda la cosa di cui ha più diretta esperienza, cioè il parlamentare, il Parlamento, il Senato? Io credo che intanto negli ultimi due anni le spese del Senato sono rimaste sostanzialmente invariate, perché questo è il nostro compito, soprattutto in un momento di crisi dove tutti i cittadini stanno soffrendo per il rischio del posto del lavoro, per l'aumento del costo della vita. Per cui io penso che, come ha proposto anche il Ministro Calderoli, sia corretto dare un segno, diciamo, moralizzatore, se vogliamo chiamarlo così, in generale della classe politica, al quale deve corrispondere altrettanto impegno ovviamente di tutta la parte della burocrazia pubblica, che gode oggi di stipendi che sono indubbiamente molto elevati. Voglio dire che non è certo una riduzione del 5%, del 10% che sia, e parlo di tutti gli stipendi dei parlamentari, ma anche degli alti magistrati, di chi percepisce insomma delle indennità molto elevate, non è questo che riesce a risanare le difficoltà del bilancio pubblico, ma un gesto in tale direzione significa assolutamente dare un segno di rispetto a tutti i cittadini che, pagando le tasse, oggi stanno, e le famiglie stanno effettivamente soffrendo degli effetti della crisi. E se dovesse, se dovesse indicare una, voglio dire, una disponibilità, secondo lei, a nome anche della sua parte politica e così via, cioè di quanto sarebbe, sia pur simbolicamente, come gesto di compartecipazione agli sforzi, di quanto sarebbe disposto lei a dire che è giusto tagliare la retribuzione dei politici? Dei politici e, ripeto, di tutta l'alta burocrazia, che percepisce anche stipendi molto elevati. Io credo che una cifra dal 5 al 10% possa essere assolutamente equa, anche se, ripeto, le cifre non saranno complessivamente così rilevanti. Però è importante dare questo segno, ma non solo. Io voglio fare un'osservazione che abbiamo avuto modo anche di sentire, ma anche abbastanza nascosta in questi ultimi anni. La crisi, la perdita di posti di lavoro, la cassa integrazione per le famiglie e i lavoratori ha messo chi è nel settore privato in grave difficoltà. E invece dall'altro lato il settore pubblico, con lo stipendio fisso e i diritti intangibili che spesso sono sconosciuti invece al settore privato, sono dei privilegi che ancora oggi hanno permesso al settore pubblico, in una situazione di crisi, di avere quasi un beneficio, cioè il costo delle vetture è diminuito, il costo delle abitazioni, degli affitti è diminuito a seguito della crisi. Chi è garantito da uno stipendio fisso e dalle garanzie del pubblico impiego ha avuto indirettamente quasi un beneficio, al contrario invece del settore privato, che ha avuto delle grosse difficoltà. In intervenire pertanto, perlomeno, non dico come sta facendo il governo di sinistra della Spagna o come sta facendo in Grecia con la riduzione degli stipendi del pubblico impiego, ma intervenire perlomeno con il congelamento degli aumenti contrattuali che hanno visto negli ultimi anni anche superare abbondantemente il livello dell'inflazione, penso sia una manovra assolutamente di equità che in questo caso può portare a risparmi di qualche miliardo di euro nei prossimi anni, che quindi può contribuire effettivamente al fatto che ci sia una responsabilità generale, non ci siano dei settori privilegiati come quello pubblico che non vede mai toccati i propri livelli di retribuzione e quello privato che invece ultimamente ha avuto delle grosse è difficile performance. Ecco, penso che riuscire a intervenire sotto questo profilo sia un motivo di equità e di efficienza. Poi un altro aspetto altrettanto importante, da quello che si è letto, quindi giustamente lei diceva quelle che saranno le effettive manovre all'interno del prossimo provvedimento di riequilibrio della finanza pubblica non sono note, il ministro ha detto giustamente che stanno e sono in corso di lavorazione. Sono ipotesi, per il momento sono ipotesi, però. Ecco, un'osservazione da fare è questa: se a fronte di questa crisi all'inizio si è fatto un grosso sforzo con la manovra finanziaria per contenere la spesa pubblica, che ci ha permesso di non ballare sui mercati, certo, in vicende purtroppo che abbiamo visto in altri paesi europei, oggi qualsiasi tipo di intervento sulla finanza pubblica, giustissimo come dicevo poco fa, necessario, non deve solamente andare nella direzione di sanare, controllare la spesa pubblica, ma deve anche le risorse, almeno una parte, spero consistente, delle risorse che possono essere risparmiate, devono essere destinate al settore degli investimenti privati. Perché l'abbiamo detto più volte, qui il problema non è solo quello, per fare come i tedeschi, per intenderci con uno slogan, non c'è solo questione di rigore sul debito pubblico e deficit pubblico, bisogna avere la parte dell'economia produttiva con più competitività per reggere la bilancia dei pagamenti e le esportazioni. Però in questa prima parte stiamo sulla questione quanto chiedere alla politica come sacrificio sia pur simbolico. Allora Villone, ha scritto Luca Ricolfi sulla Stampa, guardate che i costi della politica in generale sono 4 miliardi rispetto agli oltre 800 miliardi di euro di spesa pubblica, quindi dobbiamo individuarli sì, ma il problema è che gli sprechi sono soprattutto nel come funziona la macchina pubblica. Il professor Ricolfi nel suo ultimo libro dice: se adottassimo il cost standard nella sua versione più stretta, cioè a fronte di qualità di servizio rispetto a costo con cui viene offerto ai cittadini, sono oltre 80 miliardi sul totale di 800 della spesa pubblica quelli che si potrebbero risparmiare, e questo dà l'idea di un federalismo fiscale molto stretto che sicuramente metterebbe alla frusta però 5-6 regioni e creerebbe qualche moto di protesta nella piazza, e questa è la mia opinione. Ma rispetto a questo i costi della politica sono pur sempre 4 miliardi, qualche cosa sia pur simbolicamente si può fare. La domanda che le faccio, Villone, è questa: primo, se più o meno condivide queste cifre fatte da Ricolfi; secondo, in ogni caso che cosa si può concretamente fare alla luce dell'esperienza, cioè dell'esperienza che si fa tante chiacchiere su questo, poi di fatto in realtà quello che si riesce a ottenere è ci siamo in linea con l'inflazione, tagli reali, io non ricordo di averli mai visti. Che ne pensa Villone? Ma io penso che, come diceva il questore Franco, se ho capito bene, stiamo parlando di cose che sono sostanzialmente simboliche, di messaggio, perché bisogna capire che togliere il 5%, anche il 10% alle indennità dei parlamentari, e mi fa piacere che l'abbia detto, agli stipendi di una fascia di altri funzionari che guadagna molto di più parlamentari, è una cosa che incide in salute, non è che dà risultati particolarmente eclatanti. Devo dire che già per i bilanci di Camera e Senato forse più importante sarebbe andare a guardare il costo delle politiche, diciamo, immobiliari e di locazione, e il costo dei servizi, che sono due capitoli di spesa ben più consistenti, credo, dell'indennità dei parlamentari, o il costo del personale, per esempio, no? Quindi forse lì qualcosa di più si può vedere di fare. Ma io direi soprattutto un'altra cosa, e Ricolfi in parte secondo me ha ragione. Non è solo il problema di quanto costa il parlamentare o quanto costa il consigliere provinciale inutile o cose di questo genere. Il problema è che una politica costosa e fatta di sprechi è un carico sul sistema paese, è una politica che costa troppo, è una politica che amministra male, che gestisce male, è una politica nella quale c'è clientela e sottogoverno, è una politica che alla fine sulle tasche dei cittadini i problemi di Aristofoli e di quello che sta venendo fuori a parti e favori lo rende molto evidente. Alla fine qualcuno paga ed è il cittadino della Repubblica. Tutto questo dovrebbe essere messo nel conto dei costi di una politica che vanno tagliati a fondo, ma non con le cosucce di mera facciata, come purtroppo anche il centrosinistra alla fine si è limitato a fare. Io non è che faccio una critica a questo governo. Però Viglione, le posso fare una domanda, poi iniziamo a sentire gli ascoltatori. È vero, io sono il primo a riconoscerlo, rispetto all'ammontare, al peso relativo della componente retribuzioni, indennità di tutto il personale politico, che non sono solo i parlamentari, sono i consiglieri regionali, provinciali, comunali e via scendere. Ci sono aree urbane italiane in cui il consigliere, l'equivalente di quello che si chiamava un tempo il consiglio di circoscrizione, becca fino a 900 euro al mese, e a me sembra francamente sembra un po' fuori luogo. È vero, non è quello il clou da cui ricavare la rimessa in sicurezza dei conti pubblici italiani, però la domanda che le faccio, Villone, lei lo ha riconosciuto, qui non è questione neanche di colore politico, destra o sinistra, perché alla fine nessuno lo fa mai, ma lei non crede che chi facesse davvero, che si pigliasse la briga di una maggioranza capace di sobbarcarsi agli insulti trasversali politici di chi dice ma tu davvero adesso vuoi levarci cose dalla tasca, che gli levasse il 20, 25, 30% per rimetterci in linea su quanto vengono pagati i parlamentari dei più grandi paesi avanzati, per di più. Lei non pensa che alla fine ci sarebbe un'esplosione di consensi popolari e quella rottura politica, che avrebbe un costo terribile in termini di consenso nella macchina politica ed amministrativa, verrebbe premiata da uno strabordante consenso, Villone? Io la penso di sì, ma perché allora non si fa? È molto probabile che potrebbe esserci un'esplosione di consenso popolare, ma siccome questo la politica lo sa benissimo, se non lo fa vuol dire che mette in conto che il costo è superiore al beneficio. Appunto, il rapporto costi-benefici dal punto di vista del politico che fa il suo consenso attraverso meccanismi clientelari evidentemente non è giudicato positivamente. E allora Però purtroppo funziona così. E allora però se c'è una questione di efficienza marginale per cui il costo è superiore al beneficio di questo tipo di tagli, bisogna che chi è a casa lo capisca e si organizzi, per così dire. 9:32:47, stiamo parlando dei tagli in arrivo, della manovra di cui si parla. Tremonti ha detto non fate illazioni, però insomma alcune illazioni sono circolate. Oggi la stampa parla addirittura di un discorso in preparazione agli italiani del Presidente del Consiglio per giustificare il cambio di marcia, cioè il fatto che dopo la crisi del greca e dell'eurodebito, l'euro che continua a scendere, il mercato che non crede all'adeguatezza delle misure europee di salvataggio, ogni paese, come si vede, anche la Francia, grandi paesi devono mettere mano a nuove misure aggiuntive per tagliare il bilancio. Vi abbiamo chiesto di chiamare 800 24 00 24 per dire siete disponibili voi e soprattutto quanto chiedere anche di tagli in primis alla politica, a cominciare dai costi diretti, cioè le retribuzioni, per quanto poi il discorso, lo abbiamo visto, non è con le retribuzioni dei politici che si fa il più, ma qui c'è anche una questione simbolica, visto che si chiede ai lavoratori dipendenti di mettere mano poi alla cinghia per stringerla, quando loro le tasse le pagano tutti, e questo bisogna riconoscerlo. Sentiamo un secondo come la pensano innanzitutto alcuni di voi su questo argomento. Paolo da Piacenza, cominciamo da lei che ne pensa? Sì, buongiorno dottor Giannino. Beh, intanto personale apprezzamento per il grande equilibrio con cui lei riesce sempre a condurre dibattiti anche su argomenti a volte difficili. Grazie, ma andiamo al dunque. È un grande piacere. Detto ciò, ecco, io non sono personalmente favorevole, come già detto dai suoi interlocutori, per lo più al taglio degli stipendi, perché mi sembra demagogia, nel senso che preferirei un intervento strutturale molto concreto, e cito alcuni esempi molto semplici. Uno, riduzione dei parlamentari. Due, ovviamente per esempio anche l'aspetto legato a quello che è poi i parametri pensionistici, se ci sono degli l'abolizione delle province, se ci sono tutta una serie di interventi che ovviamente hanno un effetto molto più efficace e meno, come dire, di propaganda, e questo secondo me sarebbe altrettanto apprezzato, come dire, da noi, come dire, elettori, no? Quindi non creerebbe da questo punto di vista uno squilibrio anche su quello che la politica a cui dà grande attenzione, no? Quelli che sono gli aspetti dei sondaggi, certo. E poi delle, ecco, questo mi sembra, spererei, ecco, francamente, molto di più che non un piuttosto di niente, meglio piuttosto, perché credo che siamo a questo, insomma, ecco, quando parliamo di un 5% di riduzione degli stipendi, veramente credo sia demagogia. Bene, grazie Paolo da Piacenza, sentiamo Livia, Livia da Roma, che ne pensa lei? Buongiorno dottor Giannino, buongiorno ai suoi ospiti, sono Livia da Roma e faccio due esempi molto semplici. Da un lato noi abbiamo le province, enti inutili che costano molto denaro pubblico, dall'altra le pongo il caso di 172 persone il cui stage a 500 euro al mese lordo per 4 mesi è stato bloccato dalla neopresidente Polverini senza alcuna spiegazione, quindi noi siamo 172 disoccupati in attesa che la Polverini si ricordi di darci l'autorizzazione a prendere 500 euro lordi al mese per 4 mesi e che ci dia anche una spiegazione del perché è stato bloccato. Questo da una parte, dall'altra i miliardi sprecati nelle missioni in Afghanistan e nelle province e altrove. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie Livia, e rispetto al punto di vista, forse oggi dire sprecati quando ci sono dei caduti in divisa, Livia, io vero che amo chi porta la divisa e non posso che ripetere. Sprecati quando ci sono dei governi di entrambi i colori che individuano nelle missioni internazionali per la lotta al terrorismo, il contenimento della minaccia islamista e così via, e rispetto al suo giudizio della cittadina, oggi pensiamo che ci sono delle famiglie che piangono perché volontari in divisa si mettono sulle spalle la responsabilità di fare ciò che tutti noi loro chiediamo mandandoli e che però loro fanno esponendosi. Maurizio da Verona, lei come la pensa? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Allora, io auspico e mi auguro che venga fatto un taglio degli stipendi dei politici. Sappiamo benissimo che è più un simbolo, che è sì, più uno pro forma, sì, insomma, perché non è che si risparmi tanto. Quello che a me da operaio mi sta molto sulle scatole, moltissimo, è che ad esempio 630 deputati sono 1700 uscieri della Camera, i quali prendono uno stipendio vergognoso, soprattutto verso fine carriera, con dei coefficienti di pensione ancora più vergognosi. Quello che mi dà fastidio è che i direttori generali del Quirinale prendano più del Presidente della Repubblica. Quello che mi dà fastidio è che gli ambasciatori, altra casta intoccabile, siano invidiatissimi da tutti i loro colleghi internazionali perché prendono degli stipendi altissimi. Quello che mi dà fastidio sono tutti i direttori generali che sono assolutamente intoccabili, iperprotetti, gestiscono gran parte della spesa pubblica, non sono responsabili dei sprechi. Cioè, tutto chiarissimo Maurizio, lei dice oltre alle retribuzioni dei politici c'è in realtà una enorme proliferazione di personalità, persone, dipendenti a diversi gradi di qualifica, pagati troppo rispetto, scandalosamente troppo e con privilegi di pensione eccetera eccetera, oltre che di indennità, incredibilmente più elevati di chi ha pari o paragonabili mansioni nel settore privato. Credo che abbia assolutamente ragione. L'ultimo, poi aggiungiamo un nuovo ospite e torniamo ai nostri ospiti, che si è aggiunto la voce del sindacato. Intanto però sentiamo ancora Michele, Michele da Milano, lei come la pensa? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, dica, dica. Sono in linea, sì. Niente, io mi riagganciavo proprio a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, cioè tutta una pletora di persone assolutamente gratificate al massimo, che non solo durante la carriera, ma poi in pensione. Pensiamo semplicemente a pensioni da 10, 15, 20 mila euro al mese, che senso hanno, mi chiedo io. mi sembra veramente che abbiano un senso sul quale bisogna faticare a misurare le parole, ma la penso come lei. Ora, sul complesso della manovra, quindi su cosa andare a toccare, cosa e in che proporzione, oltre che su questa questione della politica, si è aggiunto per noi per commentare Susanna Camusso, che è segretario confederale della CGIL. Buongiorno a Susanna Camusso. Buongiorno. Ecco, come la CGIL come, diciamo, si prepara ad accogliere quelle che fino a questo momento sono illazioni e che però sicuramente riguarderanno interventi nel settore del pubblico impiego, interventi forse, vedremo quali, nell'ambito previdenziale, e poi oggi stiamo parlando anche degli esempi a titolo così simbolico, ma comunque necessari, di tagli da chiedere come cittadini alla politica, perché altrimenti c'è sempre solo chi tira la cinghia. Anzi, come titola l'Unità di oggi, titolo un po' provocatorio, ma lo ricordo perché è giusto e sembra, secondo me, anche un po' giustificato: chi ruba e chi paga. Ecco, la CGIL come si prepara alla manovra in arrivo? Beh, intanto noi abbiamo chiesto che ci sia un luogo in cui se ne possa discutere e conoscere gli orientamenti, perché una delle assurdità è che stiamo tutti discutendo di indiscrezioni stampa con una dichiarazione del Ministro dell'Economia che dice: non abbiamo ancora detto nulla, tutte le azioni. Secondo punto, ci vuole dell'equità nella manovra. Allora, io trovo queste dichiarazioni sul taglio dello stipendio dei politici troppo demagogiche, perché se si vuole e bisogna in questa situazione fare una manovra equa, bisogna che ci sia una corretta distribuzione dei sacrifici. Poi c'è sempre un connotato morale, ma io non vorrei che la morale finisse nell'antipolitica, per cui non se ne parla più per niente, insomma, ecco. Esatto, infatti, credo che ci sia bisogno di mettere mano al modo in cui è organizzata la politica, ai costi che ha la politica, per portare tutto in trasparenza. Ma l'equità è una cosa un po' più complicata, perché vuol dire che, per esempio, bisognerebbe ripartire dal fatto che le tasse le pagano prevalentemente i lavoratori dipendenti e i pensionati, e chi non le paga e ne paga troppo poche. E quindi una prima manovra equa sarebbe alzare la tassazione delle rendite. Bisognerebbe ragionare se a noi serve solo una manovra di tagli o se c'è un problema di crescita economica per questo paese, perché il rischio delle cose che si sentono, questo guarda l'Europa, non solo all'Italia, che siano tutte manovre depressive in cui si tagliano le retribuzioni dei lavoratori pubblici, si rinviano le pensioni, si riduce il potere d'acquisto delle persone, ma questo determina una riduzione della crescita, non un suo incremento. Cioè, bisognerebbe trovare un senso, e poi appunto ci vuole una manovra che sia equa. Non può essere che alla fine di questo gioco paghino solo i lavoratori e i pensionati, perché così non è possibile. E in più, se mi permette, certo. In più si rischia di fare un'operazione che sposta solo delle poste di bilancio, peggiora le condizioni delle persone ma non migliora i conti. Le faccio due esempi. Sì. Si racconta che c'è il che si potrebbe fare il blocco dei contratti pubblici. Se non si ferma l'entrata in vigore della legge Brunetta, in realtà si sta dicendo che si tagliano le retribuzioni dei lavoratori pubblici del 20%, perché quando entra in vigore la Brunetta vengono disdettati gli accordi aziendali e di secondo livello, quindi si riduce la retribuzione cosiddetta accessoria dei lavoratori. Questo vuol dire una diminuzione dei consumi secca, non è che vuol dire semplicemente che si risparmia. Oppure, se si dice che si spostano le finestre della pensione, per quanti lavoratori questo vorrà dire un passaggio alla cassa integrazione nel momento in cui le imprese stanno tutte cercando di ridurre e di ridimensionare se stesse in ragione della crisi che è intervenuta? Allora, non si può ragionare per singoli provvedimenti senza mettere in fila le conseguenze e capire che cosa determina poi sulla prospettiva del paese. Camusso, lo dico proprio per una questione anche di equità tra diversi segmenti del mondo del lavoro dipendente. I numeri, oggi il Sole 24 Ore torna, c'è una pagina intera, pagina 8 col titolo: statali aumenti oltre l'inflazione, hanno superato il tetto, 3 contratti su 4, eccetera eccetera. Rispetto, stiamo parlando quindi a chi ha qualifiche paragonabili e dipendente del settore privato, se si mettono in linea gli adeguamenti contrattuali delle ultime tornate nel settore statale, sia pur con con la giusta giusto avviso di non fare di tutt'erbe un fascio, perché anche in quel caso le retribuzioni reali sono diversificate all'interno di un medesimo comparto. Però c'è questa questione che l'adeguamento rispetto all'inflazione nel settore pubblico è stato molto molto più efficace ed efficiente, è andato oltre le cifre reali dell'inflazione rilevata rispetto a quanto non sia avvenuto nel segmento privato. Ora noi andiamo con l'informazione sulla circolazione stradale, ma la domanda che le devo fare è se questo non ponga davvero un problema per il quale nel settore pubblico, vista anche la garanzia poi di non perdere il posto di lavoro eccetera eccetera eccetera, non sia il caso comunque anche per il sindacato di riconoscere che un punto di disponibilità in più rispetto ai dipendenti privati più duramente colpiti sia giusto in termini di equità proprio. 9.46, 20 secondi, ci eravamo lasciati con una domanda a Susanna Camusso, segretario federale della CGIL, per vedere se in effetti, numeri alla mano, il settore pubblico non deve dare comunque una disponibilità in più rispetto a quello privato. Lei che dice? Beh, due premesse e poi le rispondo. Una è ovviamente, quando si fanno queste tabelle poi bisogna sapere che anche dentro i lavoratori pubblici ci sono grandi differenze. L'ho premesso. Sì, sì, infatti lei l'ha detto, credo che sia giusto ricordare. La seconda cosa che credo che sia giusto ricordare è che per molti anni le retribuzioni pubbliche del nostro paese sono state molto più basse e c'è stata anche la necessità di riportarle in avanti. Poi c'è l'oggi, la crisi e il tema di come si contribuisce tutti a venirne fuori. Noi l'abbiamo detto anche al congresso, noi siamo disposti a ragionare dei contratti pubblici, però in una logica di crescita, non in una logica semplicemente di depressione. Allora, per esempio, c'è un tema che riguarda in parte la stabilizzazione dei precari pubblici, c'è un tema che riguarda anche se per certe aree del paese non rimane l'incremento e una prospettiva per i giovani, quella dell'occupazione. Cioè, vorremmo capire se sono semplicemente, come appare adesso, dei tagli di riduzione della condizione dei lavoratori senza nessuna prospettiva, o se ce lo facciamo dentro un ragionamento che rilanci anche una presenza, per esempio, dei giovani nella pubblica amministrazione, un percorso di qualificazione, un percorso di equilibrio tra riduzione delle spese, degli sprechi, delle consulenze e dipendenti effettivi. Però se la domanda è siete disposti a fare la vostra parte, siamo disposti a fare la nostra parte. In un segno di equità e di crescita siamo disposti. Ecco, questo mi sembra per esempio interessante, che la Camusso per la CGIL dica vediamo quanti nel blocco del turnover, però per quanti giovani c'è una stabilizzazione o un ingresso, perché bisognerà pur pensare quando si blocca il turnover che la pubblica amministrazione non può essere poi fatta progressivamente solo di classi di lavoratori che si avviano ad avere un'età media sempre più elevata. Il rischio di questi anni di tagli, cioè assunti sempre con un po' con l'acqua alla gola e di definiti in tempo reale, prima definiti e adottati, poi messi sul tavolo, è quello di non avere quasi mai la scelta di una logica delle priorità, perché si preferisce tagliare o dove è possibile, dove minore sono le resistenze, o dove è proprio necessario, cioè dove si è perso il controllo. Questo significa spesso, ed è una critica che io trovo fondata, non avere il quadro d'insieme delle priorità bilanciate e di colpire con una logica un po' indifferenziata in nome dell'emergenza, che però ovviamente quando poi i mercati battono alla porta è sempre anche una componente di cui tenere primariamente conto. Però a furia di non avere un quadro di priorità, ecco che il pubblico impiego, il settore pubblico, i costi del settore pubblico rispetto alla loro efficienza, se non si governa con priorità diventano poi delle superfettazioni inerziali. Questo è il punto. E quindi si colpisce laddove spesso non vi è la voce di maggiore spesa o di spreco. Torniamo alle cifre di Ricolfi che abbiamo commentato con Villone all'inizio. Sentiamo ancora alcuni ascoltatori. Enrico dalla provincia di Novara, come la pensa Enrico? Ma io sono convinto, buongiorno, sono convinto che bisogna fare dei sacrifici, ma non è solo un problema di spesa pubblica. C'è un altro aspetto di cui si parla di meno ed è la produttività del lavoro europeo. Io ho una proposta forse originale da fare, provocatoria. Proviamo a lavorare 44 ore invece di 40 a parità di retribuzione, o proviamo a rinunciare a qualche giorno di ferie, perché è vero che i cinesi vanno bene e vanno forte perché il costo del lavoro è basso, ma i cinesi lavorano anche tanto. Enrico, quello che lei indica come una provocazione, alcuni anni fa, quando la Germania si trovò alle prese con la necessità di fare un cambio di velocità rispetto ai suoi costi, il sindacato in alcune grandi imprese tedesche lo contrattò, lì più che i contratti nazionali contano i contratti nei grandi gruppi, nel settore per esempio metalmeccanico, li contrattò esattamente con questa impostazione, disposti a lavorare di più anche in costanza di retribuzioni, in cambio di impegni sull'occupazione, ma in cambio dando concretamente molta produttività in più. Questo accade anche alla Volkswagen, a controllo pubblico, per dire. Quindi non lo so se è proprio una provocazione. Capisco che nella tradizione italiana è una provocazione, però noi abbiamo l'esempio di dove ha funzionato. Roberto da Milano, lei come la pensa? Provocazione per provocazione, da liberale penso che forse bisognerebbe considerare anche una cosa del tipo l'imposta sulla fortuna francese, cioè una la patrimoniale. Esatto, la patrimoniale. Qui si parla di comprimere i redditi che sono già abbastanza tassati, ma penso che, da buon liberale, penso che una patrimoniale consentirebbe intanto di far emergere soggetti più o meno esterovestiti che posseggono yacht, appezzamenti di terreno. Ma sa, quelli se non dichiarano non emergono neanche con la patrimoniale, attenzione. Con la patrimoniale il problema è che gli italiani sono quelli che hanno più mattone in tutto il mondo, con l'85% delle famiglie, e non so come si metterebbe. Detto questo, guardi, io non escludo neanche la patrimoniale, però nella mia visione la patrimoniale si fa o quando si fa un cambio sistemico di ordinamento fiscale, e allora bisogna ammortizzare costi di transizione, o quando c'è uno squilibrio tale nei proventi del sistema fiscale che la componente di patrimonio rispetto a quella dei redditi allora va presa come una nuova prospettiva, cioè o quando la parte dello stock rispetto ai flussi è il ragionamento del pilastro fondamentale dell'ordinamento fiscale, o quando i due pilastri sono troppo squilibrati. Ricorre alla patrimoniale un po' come si fa con lo scudi fiscali e ai condoni nel nostro paese, tanto per ramazzare, secondo me spacca l'ordinamento ulteriormente, lo sbilancio. Il problema è che sono misure che andrebbero assunte di fronte a cambiamenti epocali di prospettiva, e sono convinto che questo, per esempio, è ciò che hanno in testa anche molti come Carlo De Benedetti, come una parte del sindacato, che chiedono misure di questo tipo. Le chiedono però nel quadro di un riordinamento complessivo più che di una misura di emergenza, perché fare patrimoniale per fare emergenza, l'unica cosa che ottiene è che quegli italiani che hanno patrimonio se ne vanno all'estero e riprendiamo a scappare dal fisco, capisce? Quindi un po' questo rischio c'è, quindi io non è che lo escludo, però insomma qualche preoccupazioncina ce l'ho. Ancora Marco da Roma e poi i nostri ospiti. Buongiorno a tutti e radioascoltatori. Ho 45 anni, faccio questa premessa perché penso che siamo nella generazione forse più importante, quella che forse ha anche delle responsabilità sullo stato del nostro paese, perché evidentemente non ci impegniamo in qualche modo, anche magari facendoci sentire alle radio e facendo tante cose. Io vado al punto. Lei questa mattina chiedeva se eravamo d'accordo o meno sui tagli. Io ho sentito un pochino gli interventi di chi mi ha preceduto, e quindi, riferendomi al senatore, ora non ricordo il nome, diceva ma è simbolico il 5-10%, non risolviamo. Sarà anche simbolico, ma noi aspettiamo che loro ci diano questo segnale, che siano disposti a fare dei sacrifici come li stiamo facendo noi da ormai da qualche anno, diciamo anche da quando è entrato l'euro, quindi parliamo di 10 anni, dove ci siamo impoveriti tutti della metà del nostro benessere, perché se io prima guadagnavo i miei 6-7 milioni stavo bene, oggi con 3.000-4.000 euro, che ringrazio Dio, non arrivo comunque alla fine del mese e non ho un gran tenore di vita, ve lo assicuro. Allora, sono d'accordo con lei quando parliamo del taglio del 20, 25, anche il 30% per arrivare ai parlamentari di paesi molto più seri dei nostri, e non capisco perché i nostri debbano guadagnare così tanto rispetto agli altri. Ma perché? Che cosa hanno? E perché che cosa hanno se li sono dati questi aumenti? Questo è come i magistrati. Perché i magistrati e i politici hanno l'aumento collegato? È una maniera furba di giustificare, capisce, gli aumenti l'un dell'altro. E li metto apposta ai signori magistrati accomunandoli, visto che hanno la progressione automatica di retribuzione a prescindere dalle funzioni che svolgono. Un bel esempio di questi signori virtuosi in toga, di come loro sono diversi dai costi della casta, sono tali e quali, con gli stessi difetti, perché sono la stessa cosa. Io ringrazio i nostri ospiti, c'è una notizia da Kabul, un attacco a Kabul a un convoglio militare dell'ISAF, sono 5 caduti almeno, le prime fonti dicono che sono militari americani e canadesi. Vediamo al giornale radio quali sono le notizie purtroppo e gli approfondimenti di questo nuovo attentato kamikaze. Benissimo, grazie ai nostri ospiti, grazie a Sandro Marcotulli per la redazione e alla regia. Linea Giornale Radio, appuntamento a domani.